Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17 e 8 minuti, buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia che trasmettiamo in diretta da Santa Margherita Ligure, dove si sta svolgendo il tradizionale appuntamento dei giovani imprenditori di Confindustria, quest'anno dal titolo Giovani, guardare lontano per vedere oltre. Convegno ai giovani imprenditori di Confindustria che ha visto l'apertura dei lavori da parte del neopresidente Jacopo Morelli, del quale avete sentito l'intervista ieri in Focus Economia e del quale oggi sentiremo qualche brano dell'intervento. Ci sono state frasi anche piuttosto forti. Ha detto Morelli che l'Italia è un paese contro i giovani e ha lanciato una serie di proposte che sono arrivate sul tavolo del governo e sulle quali c'è stata anche una risposta già direttamente oggi dalla rappresentante del governo qui presente, che è il ministro per la gioventù Giorgia Meloni. Parleremo di questo naturalmente in una giornata peraltro nella quale l'Istat ha certificato le difficoltà in questa fase dell'industria italiana e le difficoltà soprattutto della crescita economica in genere, un meno 0,1% nel trimestre per quanto riguarda il prodotto interno lordo, un più 1% sull'anno, e a trainare, ed è questo il dato che colpisce, è l'agricoltura con un più 2,3%, più 0,1 tanto per i servizi quanto per l'industria. Questo il quadro economico. Affronteremo anche altri argomenti. Sempre da Santa Margherita c'è stata un'iniziativa interessante messa insieme sempre dai giovani imprenditori di Confindustria insieme ad Unicredit, che si chiama Il Talento delle Idee. Affronteremo questo tema e poi parleremo dei risarcimenti per l'alluvione in Veneto. Ci sono dubbi, perplessità su quanti soldi stiano arrivando, su come questi soldi vengano distribuiti. Sentiremo dalla voce del presidente della Regione Veneto Luca Zaia come stanno le cose e sentiremo anche la voce degli industriali. Tutto questo naturalmente come sempre fino alle 18:30. 349-238-6666 per i vostri SMS. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve di oggi. Piuttosto netto il calo del petrolio oggi in apertura a New York a 100,56 dollari al barile, il calo è dell'1,3%. C'è un dato interessante che è arrivato dalla Toyota e che riguarda gli effetti del terremoto e dello tsunami, del successivo tsunami che ci sono stati in Giappone. Ebbene, Toyota ha stimato per l'anno fiscale 2011-2012, che si chiude il 31 marzo prossimo, un utile in calo del 31% a 280 miliardi di yen. Naturalmente appunto una previsione che sconta la riduzione della produzione seguita al sisma. Ancora le vicende della Grecia, che restano in primo piano. Bruxelles conferma che si sta valutando un riscadenzamento del debito con coinvolgimento delle banche su base volontaria, sulla falsariga di quanto fatto a suo tempo con l'accordo di Vienna per i paesi dell'Est. È quello che ha confermato il portavoce del commissario europeo agli affari economici e monetari, Olli Rehn, che ha detto: occorrerà assolutamente evitare che l'operazione venga percepita come un default. Poi naturalmente il mercato farà le sue valutazioni. Comunque, nel frattempo il Bundestag, la Camera bassa del Parlamento tedesco, ha approvato una mozione non vincolante a favore del secondo pacchetto di aiuti alla Grecia, ma ad una serie di condizioni, fra tutte quella posta dal ministro delle Finanze tedesco, che chiede che il piano di salvataggio di Atene preveda il coinvolgimento dei creditori privati. Ve lo abbiamo raccontato molte volte in questo periodo, perché la Germania ci tiene tanto, perché molto semplicemente ci sono molti titoli di Stato greci nel portafoglio delle banche tedesche, così come nel portafoglio delle banche francesi. Sempre dalla Germania, la Bundesbank ha alzato le stime di crescita del 2011 portandole al 3,1% dal 2,5% della precedente previsione formulata al febbraio scorso. Per il 2012 l'Istituto Centrale Tedesco si attende un rialzo del PIL dell'1,8% contro l'1,5% previsto a dicembre scorso. E siamo alle note dolenti, naturalmente le nostre, quelle del prodotto interno lordo italiano, più 0,1% appena nel primo trimestre del 2011, un più 1% sul 2010, una conferma della stima preliminare da parte dell'Istat che ci consegna qualche dato aggiuntivo. Allora, la crescita acquisita dell'Italia per il 2011 è pari a 0,5 percentuale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se il prodotto interno lordo, la crescita del prodotto interno lordo si fermasse in questo momento, la crescita che avremo alla fine dell'anno sarebbe appunto di 0,5 percentuale. E che cosa traina questa pur modestissima crescita? L'agricoltura, perché nel primo trimestre dell'anno il comparto agricolo ha fatto segnare un più 2,3% del valore aggiunto rispetto al trimestre precedente e sono quasi ferme industrie e servizi che crescono entrambe dello 0,1%. Questo ci sembra che si associ perfettamente ai dati forniti ieri dal Centro Studi di Confindustria e dei quali vi abbiamo parlato ampiamente, che parlano di un calo della produzione industriale nei tre anni, negli ultimi tre anni, di oltre il 17% e di un paese che scende nella classifica mondiale della produzione industriale, venendo sorpassata da India e Corea. A parlare anche Fabrizio Saccomanni, direttore generale della Banca d'Italia, che tra l'altro domani sarà ospite proprio qua a Santa Margherita Ligure al convegno dei giovani imprenditori. Dice: consolidare le finanze pubbliche e tornare alla crescita non sono obiettivi inconciliabili ma irrinunciabili da perseguire con tagli selettivi alla spesa pubblica. E fin qui siamo su quello che ha detto anche il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi nelle sue considerazioni finali. E ancora Saccomanni dice: servono misure correttive da 2,3 punti di PIL. Arriva anche una sorta di promozione del governo. La manovra che il governo sta mettendo in cantiere va nella direzione giusta. Ancora dati dall'Italia, a partire da quelli diffusi dalla CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, in un'indagine presentata alla conferenza economica organizzata a Lecce. Gli italiani hanno sempre meno soldi per fare la spesa, in tre anni hanno ridotto di 336 euro il budget per gli alimentari, per un calo del 6%. E siamo alle vicende che riguardano il mondo del lavoro ma anche il mondo dell'industria, perché oggi il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, intervenuto alla festa per i 150 anni della Marina Militare, ha pranzato con una delegazione di operai della Fincantieri e ha detto sulla Fincantieri: è un patrimonio da non disperdere. Aggiunto Napolitano: è fondamentale salvaguardare le eccellenze italiane, come ho avuto modo di dire anche agli operai che ho incontrato, ma si deve rimanere competitivi a livello internazionale. C'è una storia che vi vogliamo brevemente raccontare, che riguarda la protesta che c'è stata oggi ad Agrigento con il sindaco Marco Zambuto fischiato e contestato, da quanti sono sia sindacati che industriali hanno dato vita ad un sit-in in favore del progetto Enel per il rigassificatore di Porto Empedocle. Che cosa è successo? È successo che il sindaco ha presentato un ricorso al TAR dicendo che una parte parte del gasdotto doveva passare nel territorio di Agrigento. Il TAR gli ha dato ragione, martedì c'è la sentenza del Consiglio di Stato. Ve la citiamo perché è una delle, fa parte di quelle storie che vi abbiamo raccontato, come la vicenda della centrale Enel di Porto Tolle, dove il Consiglio di Stato ha deciso lo stop ai lavori di riconversione a carbone della centrale, quella del rigassificatore di Brindisi, il progetto di British Gas, che insomma è partito 11 anni fa ed è di fatto ancora fermo, e la vicenda dell'IKEA, 6 anni per avere una risposta dalle autorità locali sulla costruzione di un negozio. E poi citiamo la notizia dell'antitrust che ha avviato un'istruttoria sull'acquisizione da parte di Mobi della Toremar. Il procedimento, che si concluderà entro 45 giorni, dovrà verificare se l'operazione crei una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore del trasporto marittimo. Infine una citazione delle parole del ministro del welfare Maurizio Sacconi, a chi gli chiedeva le conseguenze di un'udienza favorevole al ricorso FIOM sulla New Co di Fiat di Pomigliano. Io credo che dovranno anzitutto le parti e noi con loro essere in grado di garantire comunque la piena efficacia di quegli accordi. E siamo al primo tema di questa giornata, che è quello del convegno dei giovani imprenditori a Santa Margherita Ligure. Guardare lontano, giovani, guardare lontano per vedere oltre. Questo il titolo del convegno di quest'anno, è stato aperto dall'intervento del neo presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Jacopo Morelli, che ha preso il posto di Federica Guidi. In questa due giorni ci saranno, oltre a già citato Fabrizio Saccomanni, direttore generale della Banca d'Italia, il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che interverrà domani, e naturalmente la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, oggi la presenza anche del presidente dell'Istat Enrico Giovannini. Allora, abbiamo deciso di iniziare questo spazio facendo un punto sulla situazione dei giovani con questa scheda. Bisogna avere delle spalle davvero larghe e robuste per essere giovani oggi in Italia. Sopportare da un lato il costo di un welfare sbilanciato a favore di padri e nonni, dall'altro una flessibilità sul lavoro che grava in prevalenza sulle nuove generazioni. A tradurre in numeri questa condizione ci pensa l'Istat, che segnala come la disoccupazione di chi ha tra i 15 e i 24 anni arriva al 28%, ossia oltre il triplo dell'8,1% complessivo, con punte del 40-50% in alcune aree del Mezzogiorno. Da un punto di vista occupazionale, la crisi si è infatti scaricata quasi esclusivamente su chi non poteva contare sulle garanzie del posto fisso, vale a dire i più giovani. Su 532.000 posti persi nel biennio 2009-2010, 482.000 riguardavano persone tra i 18 e i 29 anni. Chi non ha perso il lavoro ha comunque visto ridursi la possibilità di trasformare il suo impiego atipico in un rapporto stabile. Acquista poi peso un fenomeno preoccupante come quello dei NEET, sigla inglese utilizzata per indicare i giovani che non studiano, non lavorano e non hanno interesse a farlo. Nella fascia di età tra i 15 e i 29 anni sono oggi oltre 2 milioni, con un'incidenza sul totale tripla rispetto alla media europea. Non sorprende che per molti giovani l'unica soluzione sia la fuga all'estero. Il Censis ha recentemente lanciato l'allarme. Nell'ultimo decennio, tra scarsa natalità ed emigrazione, il paese ha perso 2 milioni di giovani. Purtroppo ad abbandonare il paese sono spesso le forze più qualificate che, uscite dalle aule universitarie, incontrano una realtà che non valorizza il merito e scoprono che il loro titolo di studio offre statisticamente meno possibilità di trovare un impiego di un diploma. se questa tendenza non si inverte, avvisa il Censis, finirà però per incepparsi il meccanismo di ricambio generazionale su cui si basano gli equilibri economico-sociali del paese. Pochi giovani attivi dovranno infatti sostenere economicamente una popolazione anziana sempre più ampia. I numeri dello squilibrio si possono già intuire dalle drammatiche simulazioni sui futuri trattamenti pensionistici dei lavoratori atipici, che a causa dei minori contributi riceveranno assegni da 200-300 euro mensili. E questo è il quadro generale, come avete sentito, che esce dalla nostra scheda. Avete ragione a dire che ci siamo dimenticati di dare in apertura un quadro dei mercati. Il quadro è negativo, ve lo diciamo subito, poi approfondiremo più avanti, come sempre, nello spazio dedicato con i colleghi di Radio Cor. Il FTSE MIB c'è dell'1,36%, il FTSE All Share l'1,30%, e vanno più o meno male nello stesso modo anche le altre piazze finanziarie europee. Allora, il problema centrale, come avete sentito, è quello dei NEET, i Not in Education, Employment or Training, ossia quei 2 milioni di giovani che non studiano, non lavorano e non stanno nemmeno facendo formazione. Su questi temi si è soffermato anche il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, dunque sentiamolo. Riuscire a far capire che ci sono 2 milioni di ragazzi in panchina, che ogni giorno che passa perdono parte della formazione che hanno accumulato, questo è un elemento, a mio parere, cruciale. Io non voglio fare né il catastrofista né la Cassandra, ma 3 anni fa a Davos un demografo americano ci aveva detto: occhio al Nord d'Africa, perché nel Nord d'Africa ci sarà una quota enorme di popolazione giovane totalmente inutilizzata. Noi non abbiamo una teoria della rivoluzione che ci dice che oltre un certo tasso di disoccupazione scoppia tutto, ma 2 milioni di ragazzi in questa condizione a me preoccupano molto, anche perché abbiamo delle quote molto diverse tra le diverse aree territoriali, e soprattutto quest'anno abbiamo fatto delle analisi particolari. I ragazzi sono in questa posizione in modo persistente. Non è una situazione di passaggio, ma chi c'è adesso c'è stato anche due dei tre anni precedenti. Questo è un meccanismo che spinge verso l'esclusione sociale di un'intera generazione. Questo è un rischio che, secondo me, non possiamo correre. A fronte di tutto questo, il presidente dei giovani industriali di Confindustria, Jacopo Morelli, propone una ricetta in 4 punti: abbassare le tasse ai giovani, ridurre il cuneo contributivo per chi entra nel mercato del lavoro, e detassare le nuove imprese, abolire il valore legale dei titoli di studio. Allora, iniziamo a sentire qualche brano di questo intervento di apertura a Santa Margherita Ligure, partendo proprio dalla questione fiscale. Noi non ci arrendiamo dinanzi a un paese che non è e non sembra voler diventare un paese per giovani. Oggi, andando avanti in questa maniera, stiamo continuando a penalizzare le nuove generazioni, le loro forze, i loro talenti, e facendo in questa maniera sarà impossibile ottenere una robusta crescita economica. Per questo, come giovani imprenditori, abbiamo una precisa volontà, che è una volontà da condividere tutti assieme e con tutti quelli che desiderano impegnarsi. Scatenare, nel senso liberare dalle catene tutte le potenzialità che in questo momento imprigionano il paese e che gli impediscono di tornare a crescere. Quali sono queste catene? Beh, è semplice, è un sistema scolastico ed universitario spesso non adeguato ai tempi, regole del lavoro complicate ed antiquate, un welfare che è basato, lo dico a chiare lettere, sull'egoismo generazionale, una fiscalità oppressiva, una pubblica amministrazione che spesso è pervasiva e demotivata, poi ci sono chiaramente anche lì delle eccellenze, una giustizia civile lunga e che genera incertezze. Se la disoccupazione giovanile è in crescita, abbattere l'IRAP sulle start-up incentiverebbe realtà imprenditoriali, soprattutto quelle promosse dai più giovani. Già alcune regioni aiutano la nascita di nuove imprese e è importante che possano farlo tramite l'abbattimento totale dell'IRAP. E questo non solo nei territori svantaggiati, ma da subito, senza attendere il 2013 e l'entrata in vigore del federalismo fiscale. Le imprese, lo sappiamo benissimo, crescono, si espandono e in alcuni casi si ristrutturano. Ma le nuove imprese sono energia allo stato puro. Assumono e formano lavoratori, spesso hanno successo e crescono. Talvolta, ai noi, falliscono, ma anche nei loro fallimenti rimangono, per chi le sa leggere, lezioni preziose. Sempre da qua, da Santa Margherita Ligure, è arrivata la risposta del ministro della gioventù, Giorgia Meloni. Sentiamola al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Beh, guardi, noi stiamo lavorando, come voi sapete, in queste settimane proprio sul tema della riforma fiscale e anche col ministro Tremonti. Nelle scorse ore ci siamo confermati la centralità che i giovani devono avere in questa riforma fiscale. Ragioniamo da una parte appunto su aiutare le imprese giovanili di nuova costituzione, ma ragioniamo anche su come aiutare i ragazzi ad essere assunti, quindi come favorire il lavoro e chi assume degli under 30. Del resto abbiamo dato già dei segnali importanti, penso che sul decreto sviluppo abbiamo previsto l'utilizzo dei fondi europei per un credito d'imposta destinato a chi assume categorie svantaggiate nelle regioni del Mezzogiorno e ovviamente tra gli svantaggiati, insomma, i giovani sappiamo essere al primo posto. Vorremmo andare avanti su questa linea, quindi è assolutamente una tesi che noi condividiamo e sulla quale stiamo lavorando. Questa è la replica della Meloni sul fronte del fisco. Risentiremo altri due brani dell'intervento di Morelli subito dopo una pausa. Allora, rimaniamo sul tema della fiscalità, sempre in diretta da Santa Margherita Ligure, dove si sta svolgendo il convegno dei giovani imprenditori. Fiscalità per i giovani. Proprio un attimo fa il nostro Vincenzo Miglietta ci ha portato la voce di Enrico Giovannini, il presidente dell'Istat, proprio su questo tema. Ascoltiamolo. Beh, il nostro compito non è quello di fare la riforma fiscale, ma di offrire dati perché poi chi deve prendere le decisioni le prenda. Il nostro rapporto è ormai quasi completato, è stato diffuso in via informale la settimana scorsa, quindi sono circa 150 pagine di idee, però poi spetterà qualcun altro. Ai tempi della politica li decidono i politici e non gli esperti dei tavoli, naturalmente. Taglio le tasse vuol dire tutto e non vuol dire nulla. Vuol dire cosa? Aumentare le imposte indirette, diminuire quelle dirette, i contributi? Bisognerebbe evitare, direi, delle semplificazioni, perché mettere mano a un sistema fiscale produce un sistema di incentivi o disincentivi che ha effetti di medio-lungo termine. Non è possibile cambiare continuamente la normativa, perché soprattutto le imprese, quando prendono le loro decisioni, hanno bisogno di un quadro di stabilità. Per questo è importante prendere bene le decisioni con un'analisi molto approfondita e poi, come dicevo, i tempi non spettano a me deciderli. Questo, visto che eravamo in tema di tasse, anche se, come avete sentito, il discorso di Giovannini era più ampio e riguardava più in generale la riforma fiscale. Ritorniamo all'intervento iniziale, al convegno di Morelli, che ha proposto una serie di cose, tra queste una sulle pensioni che farà discutere. Dobbiamo ridurre il cuneo contributivo per chi entra nel mercato del lavoro. Lo si può fare questo senza mettere in discussione i sistemi e i principi del sistema pensionistico contributivo. Questo vuol dire innalzare però più rapidamente l'età di pensionamento. In questa maniera si riducono drasticamente gli oneri per i nuovi entranti. Ed è vero che il sistema oggi è in equilibrio, ma a che costo? Al costo di contributi previdenziali troppo elevati e sulle spalle dei giovani. Se vogliamo, ridurli, dobbiamo accettare, non è un tabù, di tornare a parlare di pensioni. E il primo passo è andare verso un'equiparazione uomo-donna. Occorre poi tendere rapidamente verso i 70 anni come età di pensionamento. Questo sta avvenendo già in altri paesi e senza andare a inficiare o senza non occuparsi della salvaguardia dei cosiddetti lavori usuranti. Sappiamo anzi da imprenditori che anche oltre i 60 anni una persona può dare ancora molto nel lavoro, perché i patrimoni di competenze accumulate spesso vanno perduti per la società e per le imprese. Così dunque Jacopo Morelli, presidente dei giovani industriali di Confindustria. Saremo tempo più avanti, vi faremo ascoltare qualcos'altro. Ci scrivete, ad esempio Stefano: cerco da 3 settimane personale per un lavoro stagionale in piscina, e dice le risposte sono disarmanti. Personale giovane, naturalmente anche questo è un tema del quale abbiamo parlato abbastanza spesso, soprattutto facendo riferimento al tema degli immigrati. Sì, l'Istat tiene conto anche di questo. È il momento dei mercati. Guido Maurino, Radio Cuore, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo poco tempo, ti chiedo di essere compatto e di iniziare a darci un quadro di giornata che, come già dicevamo, è assai negativa. Sì, una giornata abbastanza negativa per le borse europee. Milano ha ceduto l'1,33% col FTSE MIB, il FTSE All Share ha fatto meno 1,27%. Risultati simili arrivano anche dalle altre borse europee, che dopo un'apertura all'insegna dell'incertezza, all'insegna della parità, hanno virato più decisamente in negativo con l'apertura di Wall Street, che ha pagato la cattiva performance degli industriali. A Wall Street tornano infatti le preoccupazioni sulla ripresa economica, anche dopo che i prezzi all'import, i dati sui prezzi all'import di maggio hanno evidenziato come gli Stati Uniti stiano iniziando ad importare inflazione dall'esterno. E quindi da questo lato ci sono preoccupazioni per l'America che si riflettono in Europa. Naturalmente non c'è solo quello, perché immagino che ci sia, come ormai ogni giorno, il solito tema greco che butta giù i bancari, no? Anche se oggi, diciamo, i bancari hanno perso mediamente in linea. Se guardiamo i principali bancari, Unicredit ha ceduto l'1%, Intesa San Paolo l'1,07%, UbiBanca l'1,11%, è andata invece molto peggio alla Banca Popolare di Milano, che ha perso il 3,46%, ma qui le ragioni sono tutte interne all'istituto milanese, visto che si torna a parlare di nuove tensioni possibili con Banca d'Italia, visto che i soci della BPM sarebbero contrari all'innalzamento delle deleghe per il voto in assemblea da 3 a 5, una cosa che Banca d'Italia aveva più volte sottolineato come una cosa da cambiare, per cercare di rendere la banca più una banca di mercato e non sottoposta ai voleri dei dipendenti soci, che oggi rappresentano praticamente la maggioranza e il controllo della banca. Queste nuove tensioni che si prefigurano fra la Banca Popolare di Milano e la Banca d'Italia hanno portato oggi il titolo a cedere appunto il 3,46%. Allora, giù ST Microelectronics del 2,76%, ti chiedo brevemente di Atlantia, un calo del 2,5%. Sì, per quello che riguarda ST rimane ancora il fatto che il mercato dei semiconduttori continua a dare risultati penalizzanti. Oggi sono usciti i conti sotto l'attesa di National Semiconductor, un'azienda americana, che appunto sono risultati sotto l'attesa. Per quello che riguarda Atlantia invece si rumoreggia di possibili cambiamenti nella holding di controllo di Atlantia. Sintonia è una società lussemburghese, una holding infrastrutturale controllata dalla famiglia Benetton. Si parla appunto di una divisione: da una parte gli aeroporti per cui con i Benetton che controllerebbero direttamente il 100% di questa subholding aeroporti, e dall'altro ci si interroga su cosa può succedere sulla ripartizione della quota di controllo di Atlantia. Su queste notizie il titolo ha ceduto il 2,57%. Allora Guido, c'è anche stato in giornata di oggi, nella giornata di oggi si è detto un effetto referendum che ha riguardato acque potabili ed Enel Green Power, ma non solo. Sì, Enel Green Power è stato fra i pochi titoli che hanno chiuso in positivo, anche se solo dello 0,1%. Si guarda cosa succederà nel fine settimana, in particolare all'andamento del referendum sul nucleare. Si è mossa, come dicevi tu, molto bene invece acque potabili, più 7%, lo ricordiamo, i referendum riguardano anche l'eventuale partecipazione dei privati nel settore acqua. Oggi acque potabili appunto ha guadagnato il 7% alla vigilia di questa tornata. Infine ti chiedo di RCS, oggi in realtà era partita abbastanza bene, come ha chiuso? Ha chiuso a più 1,12%, anche qui si guarda al patto di sindacato che si riuniva oggi sul riassetto. In vista c'è una semplificazione della catena societaria di RCS con l'eliminazione di alcune società intermedie e la fusione di quotidiani, periodici, pubblicità e libri nella capogruppo RCS Media Group, una semplificazione che potrebbe anche presagire alcuni movimenti nell'azionariato, e su queste notizie appunto il titolo oggi ha chiuso in positivo. Grazie come sempre ai colleghi di Radio Corriere del Sole 24 Ore, grazie a Guido Maurino. Buonasera Guido. Buonasera. Allora, un quadro finale di giornata, molti titoli ribasso, ve lo dicevamo, giù Prismian del 2,40, Finmeccanica del 2,27, Buzzi del 2, Tozza altrettanto, Pirelli dell'1,99, così come Mediaset, Fiat dell'1,93, Mediobanca dell'1,82, Enel giù dell'1,61. In realtà in questa giornata i bancari, ve l'abbiamo detto, ve l'abbiamo raccontati, si salvano solo Ansaldo STS più 0,21%, la già citata Enel Green Power più 0,10, Bulgari più 0,08 e in pareggio Banco Popolare, Parmalat e Azimut con l'euro che quota 1,43,65 contro dollaro. Ora la viabilità. Bentornati in diretta da Santa Margherita Ligure, dove ci troviamo per il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, e adesso parliamo di credito alle imprese e non solo, di come possono fare le banche ad aiutare le start-up a svilupparsi, a crescere, come possono anche insegnare a chi ha un'idea a diventare imprenditore. Questo per un'iniziativa realizzata da Unicredit con i giovani imprenditori di Confindustria, si chiama Il Talento delle Idee. Saluto Gabriele Piccini, che è il Country Chairman Italia di Unicredit. Buonasera. Buonasera. E saluto anche Mirko Trascianti, che è amministratore delegato di Fubles, una delle aziende che nella scorsa edizione di questa iniziativa sono state selezionate e sono state portate a diventare un'impresa, da idea ad impresa. Buonasera. Buonasera. Allora, inizierei da Piccini perché ci dia un perimetro di questa iniziativa che avete sviluppato con i giovani imprenditori. Di che tipo di iniziativa si tratta? Guardi, questa è la seconda iniziativa che lanciamo quest'anno e diciamo segue al grande successo dell'iniziativa lanciata lo scorso anno, che aveva premiato proprio qui nel precedente incontro a Santa Margherita tutte le imprese che avevamo selezionato, le nuove idee e i nuovi imprenditori che avevamo selezionato. È stato un grande successo. Noi quest'anno abbiamo passato tutto l'anno a cercare di assistere queste nuove idee, a far sì che queste nuove idee diventassero delle imprese, che questi diciamo innovatori diventassero dei veri e propri imprenditori. Abbiamo assistito loro sotto il profilo finanziario, abbiamo assistito loro sotto il profilo formativo per far sì che diventassero dei veri imprenditori. Abbiamo cercato di metterli in contatto con fondi di private equity e abbiamo cercato anche di favorire relazioni commerciali con la nostra clientela. È chiaro che una banca rischia di essere autoreferenziante quando dice queste cose, preferirei che la conferma venisse dallo stesso imprenditore. Allora, andiamo proprio su Trasciatti, al quale chiediamo insomma, di cosa si tratta questo Fubless. È di fatto un social network che permette alla gente che vuole giocare a calcetto insieme di incontrarsi. Sbaglio? La dico grossolanamente? Com'è? No, è più o meno così, proprio così. Nel senso che è un piccolo Facebook del calcetto nel quale la gente può entrare e trovare partite da giocare nei propri dintorni o magari trovare giocatori per riempire le cosiddette partite, trovare il decimo. Ci dà qualche numero e qualche anche livello di crescita nell'ultimo anno e mezzo di questa iniziativa? Beh, la crescita è ovviamente importante per noi. Noi adesso abbiamo 35.000 ragazzi, ma anche adulti più grandi, che giocano partite in tutta Italia, dalle principali città, anche quelle più grosse, ma anche i paesini in luoghi insperati. Si fanno oltre 1.000 partite di calcetto, ma anche di altri sport in tutta Italia. Dimensione dell'azienda più o meno? La dimensione dell'azienda? Beh, è una startup, siamo passati recentemente da 3 a 6 componenti, è comunque un piccolo gruppo. E le fonti di ricavo da dove arrivano? Noi creiamo movimento, soprattutto partite. Non facciamo pagare una lira ai nostri giocatori, ai nostri organizzatori, portiamo del valore ai centri sportivi che spesso ci riconoscono una parte di questo valore. Di questo ricavo sostanzialmente. Ecco, come ha agito questa iniziativa Il Talento delle Idee su di voi? Si potrebbe dire che è come se l'avesse accompagnato. Nel senso che noi ci siamo trasformato un hobby in qualcosa di più serio, abbiamo costituito una vera società, ci siamo lanciati nell'impresa giusto un anno e mezzo fa. A quel punto, in un certo senso, Unicredit aveva scorto, diciamo, fatto scouting, aveva notato il potenziale di Fubless, ma si parlava di numeri molto molto più bassi. Da lì in poi, oltre che aiutarci a farci notare, quindi darci visibilità, riconoscere anche, insomma, Unicredit immagino che sia un qualcosa in grado di valutare un potenziale di impresa, ci ha accreditato anche verso tutti quegli operatori che poi, a cui noi ci rivolgiamo come startup, che sono poi gli investitori nel capitale di rischio. Allora, questo ci sembra chiarissimo. A questo punto io ho una domanda per Piccini, perché già gli ascoltatori ci chiedono, ma insomma va bene, lodevole iniziativa, splendido prendere delle aziende ad accompagnarle, ma vai ad applicare questo su tutto il territorio, cioè fallo quando sei una banca di queste dimensioni. Corretta la sua domanda. Il Talento delle Idee per noi è una grande vetrina, no, con la quale noi andiamo a selezionare le migliori idee sul territorio attraverso uno scouting molto molto rigoroso. Però abbiamo un'attività costante, noi abbiamo 4.000 sportelli, abbiamo 40.000 colleghi nelle nostre reti qui in Italia, abbiamo tutti i giorni domanda di credito da parte di piccole start-up e per fare questo noi abbiamo affinato dei modelli di valutazione dei business plan ormai molto molto accurati. Riteniamo che l'innovazione sia fondamentale per il nostro paese, perché senza innovazione è difficile, diciamo, avere ripresa. L'innovazione in questo momento guardiamo solo la startup, ma innovare devono innovare anche le imprese più grandi. Ormai oggi noi abbiamo capito che fare credito non vuol dire guardare al passato di un'impresa, ma guardare soprattutto al suo futuro e da qui le nuove idee. Questo ormai vuol dire che in passato forse c'è stato qualche errore da questo punto di vista. La crisi ci ha fatto capire che guardando solo al passato, i costi della crisi, che per il sistema bancario complessivo sono stati quasi 30 miliardi di euro, ci ha fatto capire che guardare al passato non è più sufficiente. Numeri delle startup che finanziate ogni anno? Nel 2010 noi abbiamo finanziato circa 24.000 startup in Italia per quasi 2 miliardi e 3 di nuovo credito erogato, che rappresenta oltre il 10% del complessivo del nuovo credito erogato a tutto il sistema Impresa Italia. Grazie Gabriele Piccini, Country Chairman Italia di Unicredit, per essere stato con noi e buonasera. Grazie a voi. E grazie a Mirko Trasciatti, amministratore delegato di Fubless. Buonasera anche a lei. Grazie a voi. Vedo Molti messaggi, come era lecito attendersi dopo le parole del presidente dei giovani di Confindustria, Jacopo Morelli, sull'innalzamento dell'età pensionabile fino a 70 anni. Dibattito naturalmente aperto sullo stesso innalzamento dell'età pensionabile, se ne è parlato moltissimo in Europa. Insomma, il tema appunto è sul tavolo, magari ne leggeremo qualcuno, ma subito dopo il giornale radio. Le 18:08 di nuovo, buonasera da Simone Spezia e benvenuti alla seconda parte di Focus Economia in diretta da Santa Margherita Ligure, dove si sta svolgendo il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria intitolato Giovani, guardare lontano per vedere oltre. Molti messaggi, come era prevedibile, sul tema dell'età pensionabile, come avete sentito Jacopo Morelli, il presidente dei giovani industriali di Confindustria, propone di portarla a 70 anni. Dice è vero che il sistema è oggi in equilibrio, ma i contributi previdenziali sono troppo elevati. Dunque, dibattito aperto anche su questo. Risentiremo qualcos'altro di Morelli e anche sul tema del fisco tra un attimo, ma prima ci occupiamo dell'alluvione in Veneto. Cosa è successo? È successo che il Presidente del Consiglio ha firmato una nuova ordinanza per il post alluvione in Veneto, 300 milioni dati dallo Stato, 150 per gli indennizi e 150 per le opere necessarie per il territorio. Poi un tetto di 30.000 euro per i beni mobili e un contributo fino al 75% per i danni a impianti, strutture e attrezzature. Saluto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buonasera Zaia. Buonasera a tutti. Allora, prima di parlare con lei ci ascoltiamo però l'intervista realizzata dalla nostra Valeria De Rosa al vicepresidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, proprio su questi temi. Non è che vogliamo aggiungerci al campionato della lagna nazionale, però qualcosa dobbiamo dirlo. Anzitutto i 300 milioni speriamo che non diventino come i carro armati di Mussolini, ma che siano 300 milioni veri. Le osservazioni sono: la prima, che si sta ingenerando della confusione nei cittadini, nelle imprese, e questo è sempre un elemento in un periodo perturbato come questo di disagio. Il secondo aspetto, secondo noi importante, è che esiste un commissario regionale di nome Luca Zaia. Questo commissario delegato dal governo ha tutti i poteri, non capiamo perché il governo debba intervenire con una nuova ordinanza che modifica quella precedente e di fatto tolga potere al commissario, che a nostro modo di vedere ha tutti gli elementi, tutti i poteri, tutti i numeri per poter agire direttamente. Vorremmo una prova di federalismo concreto, diretto sul territorio. Questo è il punto fondamentale, non vogliamo aggiungere altre polemiche, altre questioni, però questi sono i messaggi principali. In particolare per quanto riguarda questi piccoli vincoli, avete qualcosa da eccepire? Nel principio sicuramente, noi riteniamo che sia condivisibile il fatto di fissare delle franchigie, fissare dei tetti lo riteniamo limitativo. È molto più importante risarcire chi ha avuto danni importanti piuttosto che distribuire a pioggia su chi ha avuto danni piccoli. Questo è un principio fondamentale. Poi sui tecnicismi, su alcune stupidaggini inserite che vanno in contraddizione con la precedente ordinanza, è inutile entrare nel meccanismo specifico. In generale il principio corretto, a nostro modo di vedere, è quello: risarciamo anzitutto chi ha avuto danni significativi. I piccoli danni sotto i 1.500 euro non cambiano la vita del cittadino o delle imprese. Il principio di andare a risarcire un pochino a tutti e non i grossi danni per noi è sbagliato. Così dunque Luciano Vescovi, vicepresidente di Confindustria Vicenza. Insomma, come sapete, noi della vicenda dell'alluvione ci siamo occupati moltissimo. Allora, presidente Zaia, a questo punto la prima domanda quasi non gliela devo fare, nel senso che le abbiamo riportato quelle che sono le osservazioni di Vescovi e le chiediamo un commento. Guardi, a me sembra che queste osservazioni possano avere subito una risposta. Noi avevamo un'ordinanza madre sulla quale abbiamo voluto discutere, lo abbiamo fatto noi assieme ai sindaci, visto considerato che non si riusciva a erogare nulla. Le faccio un esempio, la vecchia ordinanza prevedeva che l'erogazione per pagare gli arredi fosse possibile l'erogazione di risorse ai cittadini o alle imprese solo nel momento in cui il singolo articolo, quindi se c'erano 10 sedie, la singola sedia costasse più di 1000 euro, cioè una franchigia al contrario, il che significa che fino alla modifica dell'ordinanza noi non siamo riusciti ad erogare risorse per pagare danni. Quindi questa ordinanza è stata fortemente voluta, prova ne sia che i comuni che avevano già nelle casse da dicembre 109 milioni di euro sono riusciti ad erogare a famiglie e imprese solo 38 milioni. Però arrivo a bomba, l'ordinanza oggi ci permette di entrare e pagare gli arredi, per di più con una grande novità, pagarli anche le imprese, siccome parla il vicepresidente autorevole degli industriali di Vicenza, non solo pagare gli arredi con un tetto di 30.000 euro alle imprese, ma per di più pagare tutti i danni all'impresa, macchinari, impresa, fino al 75%. Benissimo. Sembra che questa ordinanza abbia fatto danni, ma le dico anche di più e poi mi zittisco. I danni liquidabili a famiglie e imprese, secondo quanto denunciato da famiglie e imprese per un totale di 10.040 pratiche, ammontano a 158 milioni di euro. Abbiamo 150 milioni di euro e dobbiamo ancora validare tutti i 158, il che significa che i 158 si abbasseranno naturalmente e noi abbiamo già in cassa 150 milioni. Io non vedo dove sia il problema. Allora, da questo punto di vista ci sembra chiaro, voglio dire, mi sembra che abbia anche risposto a tutte le obiezioni che vengono fatte. Ce n'è un'altra però, sì. Non è mio costume, ma sarebbe chiaro per tutti se avessero il telefono, chiamassero il commissario invece di andare a fare le interviste in TV o sui giornali senza sapere neanche di cosa si sta parlando. Ecco, però, e qua veniamo al tema che volevo anche affrontare io e che è l'altro tema che affronta Vescovi, e che oggettivamente, al di là dell'alzare il telefono, un po' di confusione nella comunicazione evidentemente c'è stata, se le preoccupazioni sono state queste. Ma guardi, confusione noi non abbiamo fatto, però guardi, il tema è questo, che se il primo che passa dice la sua e c'è qualche agenzia che lo lancia a livello nazionale, addirittura riesce a fare articoli anche su quotidiani autorevoli nazionali, ne viene fuori che noi dobbiamo rincorrere queste considerazioni. Chi voleva informazioni, e i cittadini che le hanno volute, le hanno sempre avute dall'ufficio del commissario, abbiamo 30 soggetti attuatori e lavoriamo tutti gratis, voglio specificare questo, le ha avute. Io sono abituato che se non so una cosa la chiedo a chi è responsabile. Posso garantirle che ha sottoscritto solo una persona della politica e mi ha chiamato ieri per chiedermi com'era la vicenda. Tutto il resto è stata farneticazione e volontà di dire la propria su una vicenda che è semplicissima. 158 milioni di spese pagabili, che sono esattamente le spese che hanno denunciato famiglie e imprese, a fronte di 150 milioni che abbiamo in cassa. Le sembra una situazione pessima? Allora, ci sembra chiaro questo, io ho una breve pausa per la viabilità, Presidente, e poi le chiedo un altro minuto per avere un quadro sui tempi di erogazione di tutto questo. La viabilità. Le 18 minuti e 40 secondi, di nuovo buonasera da Simone Spezia, siamo con il Presidente della Regione Veneto e Commissario all'Emergenza Alluvione Luca Zaia, col quale eravamo rimasti in sospeso sull'erogazione, su come sta andando l'erogazione e sui tempi per erogare questo denaro, oltre, gli giriamo questa domanda che ci arriva al 349-238-6666 da un ascoltatore che più che altro è un'esclamazione, dice in autunno pioverà di nuovo e non sono state fatte le opere necessarie, si salvi chi può. Le giriamo questa domanda insieme a quelle sui tempi, Presidente. Beh, guardi, rispetto alle opere, noi abbiamo messo in cantiere 250 opere, delle quali almeno 220 sono già concluse. se questo cittadino ha dei dubbi mi chiama, abbiamo dato tutti i quotidiani, la lista delle opere con le ditte, i nomi delle ditte appaltatrici e le risorse, per un controvalore di 97 milioni e mezzo. Le cito i numeri tutti a memoria perché ormai li so, cioè parliamo tutto il giorno di questo. Dall'altro è pur vero che il Veneto ha bisogno anche di grandi opere, ad esempio le casse di espansione, i bacini di laminazione. Stiamo lavorando a una delibera come regione per 5 o 6 casse di espansione. Anche queste sono notizie, mi creda, che delle quali hanno parlato i giornali compiutamente per le scorse settimane. Quindi sulle opere quello che possiamo fare potevamo fare, lo abbiamo fatto, nel senso che c'è un elenco delle opere con le foto del prima della realizzazione e dopo o durante nel caso delle 30 opere ancora da concludere. Voglio anche ricordare che sono da concludere o meglio ancora da cantierare per essere precisi, perché noi in virtù della legge italiana dobbiamo portare ogni nostra decisione alla Corte dei Conti, la quale la deve vagliare e darci l'ok. Le mettete sul sito queste foto, Presidente? Beh, sì, potrebbe essere un'idea, no? Abbiamo fatto pubblicazioni, diamo tutte le informazioni ai cittadini. Sì, ma io mi resto allibito perché c'è sempre la volontà di essere polemici. Se la moda è piove, governo ladro, ne prendiamo atto. Però io dico non accetto lezioni da chi ha difficoltà a gestire l'imbianchino in casa per darsi una rinfrescata a soggiorno, che viene a fare lezioni su come si cantierano opere pubbliche. Noi in 8 mesi dall'alluvione, con praticamente tutto l'inverno impraticabile per quanta pioggia c'è stata, cioè penso che i dati ci diano ragione, si è riusciti a cantierarne 250. Se qualcuno vuol venire a spiegarci come si fa prima, visto e considerato che nessun cantiere quest'inverno in Veneto è riuscito all'aria aperta ad avere vita. Quanto all'erogazione, voglio ricordare che questa alluvione, unica nel suo genere, dopo 8 giorni aveva già i 300 milioni stanziati e noi erogavamo già il primo acconto ai cittadini, ai comuni, che poi hanno girato in parte ai cittadini, in parte ancora trattenuto perché l'ordinanza dava dei limiti, per 109 milioni di euro. Erogheremo entro giugno la quota che porterà al 50% delle cifre che si aspettano cittadini e imprese, e poi il saldo per arrivare al 75%, perché è la percentuale massima che noi possiamo dare rispetto al danno, con il tetto di 30.000 euro per gli arredi o per i danni sulle case per i cittadini, la cifra, cioè la percentuale finale, il 25%, quindi dal 50% che daremo entro giugno al 25% finale per arrivare al 75%, lo erogheremo quando vedremo la contabilità, perché lei sta parlando con una persona che in maniera irrituale ha sempre erogato anticipi senza vedere carte. Io spero che qualcuno si renda conto di questo. Grazie a Luca Zaia per la sua chiarezza e per essere sempre diretto. Grazie e buonasera. Arrivederci, grazie a voi. Così dunque Luca Zaia, presidente della Regione Veneto e commissario all'emergenza alluvione. Abbiamo la sensazione che non finirà qua comunque su questi temi. Allora, ritorniamo sul convegno di Santa Margherita Ligure dal quale vi stiamo trasmettendo. Abbiamo ancora due voci da farvi ascoltare, una nella quale il presidente dei giovani industriali si rivolge direttamente alla politica e con una certa energia, e poi, dato che vi abbiamo fatto ascoltare sulle tesi di Morelli la voce della maggioranza, sentiamo una voce dall'opposizione, che è quella di Matteo Renzi, sindaco di Firenze, anche lui presente qua. Dunque, iniziamo da Morelli sulla politica. Mai come in questo momento la crescita dell'Italia per i giovani e attraverso i giovani rappresenta il primo impegno per chi ha responsabilità. Mai come oggi serve leadership, e leadership, lo ricordo, è anche coraggio di fare scelte di cui beneficerà e di cui si beneficerà soltanto in futuro. Non possiamo continuare a occuparci non del domani ma soltanto del quotidiano, questo è inaccettabile. Nei periodi in cui manca leadership la società ristagna, e il progresso, anzi la storia ce l'ha mostrato, avviene quando persone capaci e coraggiose, basterebbe la metà di tutti quanti siamo in sala, accettano la sfida del cambiamento. Noi giovani imprenditori, con queste proposte messe sul tavolo, accettiamo la sfida e non smetteremo mai di combattere insieme a tutti coloro che vogliono un'Italia più libera, più forte e più orgoglioso di esserlo. E Sulla questione del taglio delle tasse e non solo, un taglio delle tasse per i giovani, sentiamo dunque Matteo Renzi. Io condivido totalmente l'idea di Jacopo Morelli e dei giovani industriali dell'abolizione del valore legale del titolo di studio. Oggi le università sono troppe in Italia, andrebbero dimezzate. Oggi ci sono troppe cattedre, spesso finalizzate a aumentare il potere dei baroni universitari che non a soddisfare le esigenze dei ragazzi. E allora bisogna anche dire però ai ragazzi che all'università non ci si può schiacciare 10 anni della propria vita tra fuori corso e altro. No, bisogna dire all'università si sta 3-4 anni, non importa avere la laurea finale, importa avere un curriculum, un curriculum serio, credibile da offrire, ma abolire il valore legale del titolo di studio aiuterebbe a semplificare il quadro, così come è molto interessante la proposta di ridurre le tasse per i più giovani che entrano in un posto di lavoro. L'importante però è farle, non continuare soltanto a annunciarle queste proposte, e questo riguarda ovviamente innanzitutto la politica. Di Matteo Renzi, sindaco di Firenze, che come avete sentito ha parlato parecchio di università, niente di più appropriato perché chiudiamo proprio parlando di università e della guida che troverete lunedì con il Sole 24 Ore, della quale parliamo con il collega del Sole 24 Ore, Cristiano Dell'Oste. Cristiano, buonasera. Buonasera. Allora, che cosa contiene questa guida? La guida che pubblichiamo lunedì con il giornale è un inserto pensato per chi deve scegliere l'università in questo momento, quindi è rivolta principalmente agli studenti dell'ultimo anno delle superiori che si trovano alle prese ora con la maturità, insomma, e poi con la scelta della facoltà, del corso di laurea a cui iscriversi l'anno prossimo. E che cosa, qualche dettaglio in più? Guarda, il taglio che abbiamo voluto seguire quest'anno è orientato in modo particolare al mercato del lavoro. Fare previsioni da qui a 4 anni è ovviamente difficile, 4-5 anni il tempo della laurea, ma ci sono una serie di informazioni, quali ad esempio lo stipendio medio rilevato da alma laurea a una certa distanza dal titolo, 1, 2, 3 anni. Ci sono informazioni sulla condizione occupazionale e poi ci sono le tabelle con l'offerta formativa aggiornata, quindi con tutti i corsi che possono essere consultate su internet, saranno pubblicate lunedì insieme alla guida e ci daranno un elemento di informazione in più molto utile per chi deve scegliere. Se abbiamo tempo, bene, può essere così, ecco, curioso vedere quali sono le tre aree. Dimmi solo le tre aree, Cristiano, velocissimo. Le tre aree con gli stipendi più alti, guarda, medicina 1600 euro netto a distanza di 3 anni dal titolo, ingegneria 1530, economia 1460. Chiarissimo, grazie a Cristiano Dell'Oste, quindi questa guida la trovate lunedì con il Sole 24 Ore. I ringraziamenti a Davide Cioce e Michele Previato per la parte tecnica qua a Santa Margherita Ligure e a Valeria Bernardi a Milano, Mauro Del Corno per la parte redazionale qua a Santa Margherita e Barbara Bianchi a Milano. Un ringraziamento come sempre a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia e buona serata. Radio 24. La passione si sente.